l'altra Europa. 6 minuti dopo le 12 in diretta sull'altra Europa, io sono Federico Taddia, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle opportunità, all'Europa delle possibilità. Lo sapete, andiamo alla ricerca dei progetti europei, dando voce ai protagonisti e non solo, perché l'idea è quella di raccontare anche quello che funziona di questa Europa che sta vivendo un momento molto difficile e molto complicato. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, le coordinate digitali per seguirci anche sui social network, @euronetplusr24, oppure il mio account personale, @FedericoTaddia, lì tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare ogni settimana. Quindi tante voci, tanti protagonisti. La cultura è una delle grandi colonne che tentiamo di costruire e che tentiamo di narrare in questo programma, e oggi partiamo proprio da lì, andando a Pistoia. Andiamo a Pistoia, diamo il benvenuto a Samuele Bertinelli, sindaco di Pistoia, di ritorno da Bruxelles, dove c'è stata una importante giornata proprio per presentare il progetto Pistoia, capitale italiana della cultura. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a lei. Capitale italiana della cultura, cosa siete andati a fare a Bruxelles? Siamo andati a rappresentare per un verso progetto della città, la città stessa in un consesso internazionale importante. Per altro verso, ed è ciò che ci premeva di più in realtà, abbiamo a Bruxelles sperimentato una nuova tappa di una costruzione di relazioni tra città italiane ed europee della cultura, per provare ad interpellare le istituzioni europee intorno alla direzione di marcia dell'Europa, perché la capitale europea e quella italiana della cultura non può essere dal nostro punto di vista una sorta di medaglia, insomma, una benemerenza, ma deve essere concepita come una responsabilità. La responsabilità che abbiamo cercato di esercitare anche nel passaggio al Parlamento europeo è quella di provare dalle città ad indicare una prospettiva diversa, per tanti versi potremmo dire opposta, a quella che vediamo dell'Europa di oggi. Un'Europa nella quale torniamo a vedere tutto ciò per cui i nostri padri, i nostri nonni nel 1945, liberandoci dalla vergogna del nazifascismo, dissero mai più, e invece oggi tutto quello che non avrebbe mai più dovuto essere è di nuovo nel cuore dell'Europa: muri alle frontiere, vestiti spinati, rigurgiti razzisti, leggi razziali, governi apertamente xenofobi. Allora abbiamo voluto riaffermare con forza che l'Europa dovrebbe guardare a quella utopia concreta, figlia della migliore cultura politica, anche italiana, penso a Colorni, a Spinelli, a Rossi, a De Gasperi, degli Stati Uniti d'Europa, un continente fatto di città, città che all'inizio della loro avventura, quasi 1000 anni fa, come si diceva in Renania, hanno concepito la loro autodeterminazione nel segno della democrazia municipale, perché l'aria delle città rende liberi, per mettere al centro del progetto europeo il sapere inteso come il primo dei diritti di cittadinanza, ciò che fa liberi ed eguali gli umani, fattore di emancipazione individuale e collettiva. Abbiamo voluto soprattutto cercare di affermare questo, certo, e farlo con i nostri colleghi delle capitali europee e italiane della cultura. Mantova lo scorso anno, Pistoia quest'anno, è stato dato l'annuncio di Palermo, poi ci sarà l'appuntamento nel 2019 con Matera, che sarà capitale europea della cultura, quindi un lungo filo conduttore dove, insomma, la parola cultura prende, al di là della retorica, prende forma, no? Si concretizza anche in progetti reali che punteggiano la vita di una città, come sarà per Pistoia quest'anno. E tutto ciò a Bruxelles è stato accolto in questa giornata di presentazione. Che reazione avete avuto? Abbiamo avuto una reazione molto molto positiva per alcuni versi, al di là delle nostre aspettative. Nel senso che sia il commissario europeo, sia la commissione del Parlamento europeo che si occupa di addirittura il vicepresidente del Parlamento, molti autorevoli parlamentari hanno raccolto l'indicazione che viene dalle nostre città, che è quella di concepire queste occasioni di designazione con il titolo di capitale per strutturare un progetto di futuro e per farlo concependo le politiche culturali come il lievito di tutte le altre politiche, come il punto di osservazione privilegiato rispetto alla costruzione di nuovi modelli di sviluppo. La cultura poi deve essere anche moltiplicatrice di economie positive, insomma, assolutamente, di qualità, e da questo punto di vista l'onorevole Costa, che ha coordinato la nostra riflessione istituzionale al Parlamento, ha lanciato la proposta che ho immediatamente raccolto, perché incrocia perfettamente il senso di quello che stiamo cercando di fare, di promuovere a Pistoia, nella seconda parte di questo 2017, un meeting europeo con le istituzioni europee, ma davvero con tutte le capitali in Europa della cultura e quelle italiane, e quindi Mantova, Palermo, Matera, che sarà appunto la capitale europea della cultura, le quali tutte erano presenti. Di Palermo abbiamo saputo in presa diretta, ci siamo immediatamente complimentati con Leoluca Orlando, quella città straordinaria, una capitale del Mediterraneo e dell'Europa, un incrocio di civiltà formidabile come appunto Palermo, che tutti sono appunto invitati a Pistoia per provare, diciamo, a costruire una sorta di diplomazia dal basso per un'altra Europa possibile, in un anno significativo, perché questo è l'anno del trentennale della fondazione dell'esperienza delle capitali europee della cultura, è l'anno del G7 della cultura che si svolgerà a Firenze alla fine del mese di marzo, ed è l'anno che prepara l'anno dedicato al patrimonio culturale europeo, che sarà il 2018. È un anno nel quale l'Italia porta una responsabilità significativa per le istituzioni internazionali e appunto per questo anche accoglierà il G7. Dunque ci pare che unire alla riflessione dei governi e degli stati quella dei cittadini e delle città sia assolutamente necessario, anche per provare a colmare quello iato doloroso e inquietante tra quello che una volta si sarebbe definito il paese reale e il paese legale, la sua rappresentazione istituzionale. Siamo dentro una discrasia pericolosa, diciamo, che allontana dalla percezione, dal senso comune dei cittadini, le istituzioni, e ci sembra invece che politiche culturali esigenti, che nascano anche come frutto di una partecipazione civile diffusa, possano essere utili in questo senso a rigenerare il tessuto democratico, a costruire sentimento di comunità e a farlo rafforzando identità aperte al futuro, non le piccole patrie xenofobe, chiuse in se stesse e che si affermano per differenza con gli altri, ma differenze intese come pluralità e ricchezza seminale del mondo, che si confrontano in scenari più larghi. Insomma, giocando poi sul campo del territorio, che è quello che fa la differenza. Pistoiacultura2017.it è il sito per conoscere il programma di questi 12 prossimi mesi. Grazie Sindaco, buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a voi. Noi ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Strategic Growth Forum Mediterranean. Si terrà a Roma il 9 e il 10 febbraio lo Strategic Growth Forum Mediterranean. Due giorni di confronto tra imprenditori, investitori, funzionari governativi e opinion leader provenienti da Europa, Medio Oriente, Nord Africa, India e Cina, per parlare di prospettive di crescita e di investimento nell'area mediterranea. Il forum si concentrerà quest'anno su temi chiave, soprattutto nei rapporti con i mercati emergenti dell'Estremo Oriente, per riportare in vita il dibattito su come creare, sostenere e accelerare la crescita. Innovazione, nuove tecnologie, infrastrutture, efficienza energetica, sicurezza e cyber security. Per tutte le informazioni, e-ypsilon.com. l'altra Europa. È un inno quello che state ascoltando, un inno che risuona ogni anno dal 2007, quando è stato indetto questo concorso dalla Commissione Europea Juvenes Translatores, un concorso di traduzione nelle lingue che compongono l'Unione Europea. Quest'anno hanno partecipato oltre 3.000 studenti da tutta l'Unione che si sono cimentati nella traduzione di testi. I partecipanti potevano scegliere di tradurre da una delle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili. Hanno fatto i vari conti, 28 studenti vincitori, uno per nazione, tutti insieme il 6 aprile andranno a Bruxelles per questa giornata in cui verranno ufficialmente proclamati appunto i vincitori. E abbiamo però il piacere di avere con noi la vincitrice italiana, studentessa del quarto anno del liceo linguistico statale Giovanni Falcone di Bergamo. Diamo il benvenuto a Carolina Zanchi. Ciao Carolina. Ciao. Buongiorno, sei a scuola, vero? Sì, sì. Ok, per la prima volta sei nata in presidenza, credo, per fare questa intervista. Sì, no, la seconda. La seconda, ok. Dopo la notizia. Sei stata sorpresa dalla notizia? Sì, perché sì. Non me l'aspettavo proprio per niente, okay, di vincere. Com'è andata? Intanto, cosa hai dovuto tradurre e da quale lingua? Allora, io potevo scegliere tra le tre lingue che studio, quindi inglese, francese e tedesco. Sì. Ho scelto di tradurre dal tedesco e quando abbiamo fatto il concorso ci hanno dato il testo originale in tedesco, che era una intervista radiofonica. Quindi l'intervistatore era a Bruxelles e stava intervistando una ragazza che stava per entrare a fare lo stesso concorso, la stessa competizione che ho fatto io. Okay. E quindi la ragazza spiegava come si era preparata, spiegava che sua mamma era di origini straniere, suo papà anche, quindi lei parlava due lingue differenti e poi a scuola parlava francese. E il tema generale comunque era apprendere le lingue e la loro importanza. Certo, quindi insomma, quindi è ancora più complicato, nel senso che hai dovuto ascoltare e tradurre un audio, non un testo scritto. No, era scritto. Ah, era un testo scritto, ok, perfetto, era già stato sbobinato tecnicamente. Sì, sì. Carolina, ma tu come mai hai scelto il liceo linguistico? Nel senso, le lingue cosa rappresentano per te? Quando ero in seconda media, tra le vacanze tra la prima e la seconda media, sono andata in Grecia all'estero e mi sono resa conto che con le altre persone non riuscivo a comunicare, con le persone straniere non sarei riuscita a comunicare se non avessi saputo parlare le loro lingue, e quindi poi avevo conosciuto anche altri ragazzi là e ho deciso che mi sarebbe piaciuto prenderle. Infatti poi da lì ho iniziato a studiare meglio l'inglese e il tedesco, che studiavo già alle medie. E comunque sia, per me le lingue sono una grande apertura verso il mondo. Infatti partecipiamo anche qua a scuola a gemellaggi, scambi culturali, dove incontriamo sempre tante persone. E sono un mezzo grandissimo le lingue, secondo me. Beh, è una bella occasione di incontro, l'avrai il 6 aprile quando andrai a ricevere il premio dalle mani del commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane per questa tua capacità nella traduzione delle lingue. Complimenti Carolina, a te e anche a tutta la scuola, perché quando insomma si raggiungono questi risultati vuol dire che c'è anche un bel lavoro in classe, e anche complimenti ai professori che vi hanno introdotto a questo concorso. Ciao. Grazie. Ciao Carolina. Ciao ciao ciao. Ciao. Europost-it. Safer Internet Day. Attenzione genitori, insegnanti e ragazzi appassionati della rete. Il 7 febbraio torna in contemporanea in oltre 100 paesi il Safer Internet Day, evento annuale organizzato da InSafe e InHope, con il supporto della Commissione Europea per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie tra bambini e giovani di tutto il mondo. Lo slogan dell'edizione 2017 è Be the Change, Unite for a Better Internet. Siate il cambiamento, unitevi per un Internet migliore. E vuol far riflettere i ragazzi sul ruolo attivo che ognuno gioca in ogni momento all'interno della rete. Uno degli eventi principali in Italia si svolgerà il 7 febbraio a Roma, negli spazi espositivi della caserma Guido Reni, e vedrà la partecipazione di più di 1000 studenti. Per tutte le informazioni e per partecipare alle attività della giornata, cercate Safer Internet Day sul sito generazioniconnesse.it. Ma start da one yeah. Like Martin Luther King would have started. My dream. Tell you my dream is to live my dream. Yeah, the most I in my sleep when me say. Tell you my goal. All of my goal is to reach my goal. Live a happy life, put it on me headstone. Nobody know fi cry over me dead. Look at me now, when them treat me less than gold. Put me in a box like a rectangle. Si intitola Il mondo in una scuola, storie e viaggi dell'operaio europeo, un libro nato dai racconti degli immigrati che hanno frequentato la scuola di italiano per stranieri, nata più di 15 anni fa nei circoli operai di Genova, libro che ha avuto una presentazione anche ieri alla Spezia, grazie all'Associazione Culturale Mediterraneo e al Centro di Documentazione Logos. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Bruno Fra Giacomo, curatore del libro. Buongiorno Bruno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Chi è questo operaio europeo? Guardi, è una cosa molto interessante. Allora, abbiamo conosciuto persone disponibili a viaggiare per tutto il mondo alla ricerca di un lavoro, alla ricerca di un posto dove vivere tranquillamente. L'operaio europeo ha varie facce. Può essere quello che fugge da guerre, che fugge da tensioni religiose, oppure da situazioni familiari. Per esempio dall'Africa, da certi posti dell'Africa si fugge dalla propria terra perché c'è la guerra per accaparrarsi la terra. Ci sono bande che ti ammazzano magari i genitori e tu fuggi perché appunto rischi la pelle, perché questa terra ormai ha un valore, perché viene poi coltivata a livello industriale, quindi c'è una richiesta che viene, per esempio. Oppure dall'Asia si viene via per cercare una vita migliore, per cercare dove magari non c'è lavoro. E queste persone sono disponibili a trasferirsi da tutte le parti a fare qualsiasi lavoro. Ho conosciuto persona che per esempio è venuta, che ha lavorato negli Emirati, ha lavorato in Libia, poi dalla Libia sono dovuti scappare, poi è andato a lavorare in Danimarca. Oppure c'è il ragazzo afghano che per due volte fa il viaggio verso l'Europa perché deve scappare da lì, perché ha rischio di diventare, di essere preso dai talebani, e quindi prima a 15 anni va fino a Londra e fa il primo viaggio dove c'è il fratello, poi viene scoperto dopo 3 anni di lavoro, viene riportato al suo paese, lì rischia la pelle immediatamente, deve rifugire, la famiglia musulmana, per carità, gli paga, gli vende la terra, gli paga il viaggio, e lui a 21 anni si ritrova a rifare la rotta balcanica e poi lo ritroviamo in Italia, arriva in Italia e arriva poi alla scuola, è arrivato alla scuola dove l'abbiamo conosciuto. Ci sono tante storie. Tante storie. Sono oltre 74 le nazionalità diverse che in questi 15 anni entrate certo. nella vostra scuola. Avete raccolto alcune di queste storie. Cosa significa convivere con appunto il mondo in una scuola? Ma guardi, se lei mi chiede la mia esperienza, io tra l'altro per la vita io sono in pensione, ho fatto l'insegnante, ma qui è una cosa completamente diversa. Qui c'è un rapporto umano, c'è una valenza che è difficile da spiegare, bisogna provarla, e nello stesso tempo è molto interessante vedere come ci siano molti, molti volontari disponibili a entrare, a mettersi in gioco, gente di ogni età, gente che lavora, gente che è in pensione, persone che diciamo di idee generalmente progressiste, che di fronte a questo problema hanno deciso di schierarsi, hanno deciso di fare qualcosa e chiedono, e quindi è un'esperienza. Poi qui dai, quando ci salutiamo, magari la stretta di mano, la pacca sulla spalla, ha una valenza diversa da quella che può avere tra di noi, perché sono persone che effettivamente vengono, sfuggono da situazioni tremende, come ormai su tanti libri, anche altri, si può riscontrare. Un aspetto molto interessante, ti dà fiducia nel futuro, ovviamente. Ti dà fiducia nel futuro, ma dà fiducia in questa Europa, visto che comunque l'aggettivo certo, europeo l'avete utilizzato nel titolo. Sì, certo, noi abbiamo fiducia nell'Europa, abbiamo fiducia soprattutto in un mondo di solidarietà, che va oltre l'Europa da questo punto di vista. Però cominciamo pure dall'Europa, cominciamo pure dal nostro piccolo, da Genova, dall'Italia, eccetera. E lavoriamo affinché, diciamo, emergano di più ideologie, comportamenti di convivenza, di solidarietà, più che ideologie, combattendo evidentemente situazioni, ideologie xenofobe che sono pericolose, che porterebbero divisioni pesanti tra la popolazione, soprattutto tra i lavoratori, e quindi con conseguenze negative, anche imprevedibili. Centro documentazione logos.blogspot.it, questo è il sito del centro di documentazione che ha pubblicato il libro, ricordiamo, Il mondo in una scuola, storie e viaggi dell'operaio europeo. Grazie Bruno, complimenti per questo ottimo lavoro. Grazie per il vostro interesse, arrivederla. Buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, un Europost-it, un po' di pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Stati generali della generazione Erasmus. In occasione del compleanno del progetto Erasmus, che nel 2017 diventa trentenne, Erasmus Plus Indire, con la collaborazione di MIUR, Presidenza del Consiglio e Unione Europea, organizza a Roma il primo Consiglio italiano degli Stati generali della generazione Erasmus. Le celebrazioni avranno inizio il prossimo 24 febbraio e saranno un'occasione per fare il punto della situazione, lanciare le basi per nuovi finanziamenti e aprire le porte a futuri progetti. Obiettivo degli Stati generali sarà coinvolgere gli studenti Erasmus in uno spazio di discussione e confronto sui temi di interesse per l'Europa dei giovani, facendo tesoro della loro esperienza di mobilità, che rappresenta un momento fondamentale per la formazione, la crescita personale e lo sviluppo della cittadinanza europea. Tutte le informazioni sul sito indire.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Federico Taddia per trovarmi sui social, Euronet Plus, R24 invece, l'account ufficiale, lì tutti i link relativi agli argomenti di cui stiamo parlando, come per esempio Startup europeweek.eu, questo è il sito per la settimana che apre il 6 febbraio, quindi ci siamo, lunedì. In oltre 40 paesi europei, la Start Europe Week 2017. Di cosa si tratta? Di questa iniziativa promossa dalla Commissione europea? Ne parliamo con Tiziana Lombardo, una delle coordinatrici e cofondatrici di Startup Europe Week. Ciao Tiziana, ben ritrovata all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno, ben ritrovato anche a te. Cosa succede da lunedì? Da lunedì, come per l'edizione 2016, in 40 paesi, per tutta la settimana si parlerà di start-up, di politiche locali per favorire la cultura delle start-up e favorire le start-up stesse, si parlerà di innovazione, di tutto quello che ruota intorno al mondo delle start-up e che magari le politiche europee non riescono a intercettare direttamente con i programmi che hanno comunque un approccio top-down cosiddetto. Startup Europe Week si interseca infatti con il programma di finanziamento della Commissione Europea Startup Europe, che ha tutta una serie di iniziative a livello europeo per studiare l'ecosistema delle startup europee. Noi col nostro movimento dal basso vogliamo dare una marcia in più e anche una elementi aggiuntivi alla Commissione per riflettere su quello che è l'ecosistema europeo. Certo, Tiziana, ma la finalità prima adesso qual è? È incentivare l'avvio di nuove startup o dare gli strumenti affinché queste startup, magari già avviate in passato, possano sopravvivere? Cioè, qual è la politica di cui sentite maggiormente l'urgenza? Ma sicuramente in questo momento, dopo due anni dal lancio del programma Startup Europe, c'è stato un importante momento di riflessione, tra l'altro culminato con un evento che è avvenuto a Bruxelles questa settimana. Adesso c'è necessità di consolidare quello che si è seminato. In questi due anni sono state fatte numerosissime iniziative legate a pitch, mentoring, finanziamenti per le startup, sono stati finanziati viaggi in Silicon Valley. Adesso è il momento di consolidare questi risultati e dare una spinta in più, perché come dicevo prima è fondamentale costituire adesso un ecosistema europeo di startup. Non si tratta più di pensare a un modello che sia quello della Silicon Valley, ma si tratta di scrivere la European Valley, il modello europeo di startup. Stavo riflettendo che insomma pochi minuti fa la Merkel ha parlato di un'Europa a due velocità. Se si guarda l'Europa con gli occhiali delle start-up, quante velocità ci sono? La velocità è sicuramente molteplice. Con gli occhi delle start-up ci sono varie velocità, vari entusiasmi. Chiaramente il mondo delle start-up è sempre legato prevalentemente a un mondo giovanile, quindi è un mondo estremamente dinamico. È un mondo anche che in Europa tende a essere un po' disilluso a volte nei propri entusiasmi. Quindi questa velocità che una spinta giovanile ha comunque magari viene frenata da quelli che sono eventuali ostacoli. Per questo, grazie a Startup Europe Week, noi vogliamo stabilire un contatto più diretto con le istituzioni locali, perché pensiamo che non solo con le istituzioni, ma confrontandosi con le realtà che si hanno accanto, si ha anche un supporto maggiore, una spinta maggiore a mantenere o a accelerare di nuovo questa spinta. Grazie Tiziana. Allora ricordiamo ancora startupeuropeweek.eu, il portale per tutte le iniziative. C'è qualcosa che veramente una manciata di secondi ci vuoi segnalare? Ma sicuramente l'evento iniziale in web streaming di lunedì a Bruxelles, al centro dell'Innovation Center della Microsoft, dove ci saranno anche i commissari europei che parleranno proprio delle politiche europee per le start-up e faranno un confronto. Eventi in tutta Italia, dal nord a sud, saranno per tutta la settimana, saranno di qualsiasi natura. Vi suggerisco di andare su Eventbrite e cercare l'evento più vicino a voi e sicuramente troverete un ambiente dinamico, di discussione aperto, quindi vi invito a partecipare. Grazie a Tiziana Lombardo, buona settimana. Ciao Tiziana. Grazie a te, ciao ciao. Europost-it. Servizio volontario europeo a Belfast a tema cooperazione e sviluppo. Hai tra i 18 e i 30 anni e desideri partire per un'esperienza di volontariato internazionale? L'associazione irlandese TFS, con sede a Belfast, è alla ricerca di volontari che sostengano le sue attività di cooperazione verso paesi terzi. TFS si occupa infatti di dare sostegno e promuovere l'autoimprenditorialità, la creazione di piccole imprese cooperative e la formazione professionale in diversi paesi in via di sviluppo. L'associazione svolge anche attività di sensibilizzazione sul territorio irlandese legata alle tematiche della sostenibilità nei paesi in via di sviluppo, affrontando discussioni quali ambiente, rifiuti e riciclaggio. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sul sito scambieuropei.info. You sit there in your heartache. Sono i 30 anni dell'Erasmus, lo sapete, lo abbiamo detto poco fa all'interno di uno dei nostri Europost-it. Ci sarà il 24, mi sembra, 24 febbraio, siamo venerdì o il 25, ora scusate, ma ho il calendario confuso. Ci sarà questa conferenza, questa giornata, gli stati generali dell'Erasmus, ne parleremo nelle prossime puntate. Settimanalmente vi stiamo raccontando storie, esperienze curiose legate a questo progetto che ha fatto e fa la storia dell'Europa. E questa settimana c'è stata una proposta di un assessore, l'assessore alla cultura e al turismo della città di Assisi, che ha detto: perché non pensare anche a un Erasmus dedicato alla terza età? Si tratta di Eugenio Guarducci, che è qua con noi. Buongiorno Guarducci. Buongiorno a voi. Ha voglia di partire? Voglissima. Allora, ci racconti un po' qual è il cuore di questa proposta, che insomma non è una provocazione, però credo che sia un'idea per favorire la mobilità non solo dei giovani ma anche degli adulti. Sì, assolutamente, il tutto nasce da una riflessione personale, perché io ho figli che appena hanno fatto l'Erasmus, quindi ho vissuto questa esperienza, la loro esperienza, in maniera significativa e importante, e quindi sono stato un po' anche invidioso di quello che mi hanno raccontato, no? Perché io purtroppo quando c'era l'università la facevo io, non c'era l'Erasmus. E quindi da lì l'idea è nata e l'abbiamo proposta sulle pagine del Corriere dell'Umbria, che si è aperto poi un dibattito, di creare in Umbria appunto un laboratorio sperimentale per un Erasmus dedicato alla terza età, cioè coloro che dai 60-75 anni ancora bei arzilli e con il desiderio ancora di apprendere, di conoscere, magari di apprendere appunto la lingua italiana, la storia, la cultura, l'arte, ma anche poi di conoscere i nostri prodotti, possano spendere dei mesi nella nostra regione per poi tornare e riportare un messaggio importante e magari poi anche comunicare questa loro esperienza. E quindi l'idea nasce da Assisi, ma vuole essere un'idea regionale sulla quale già abbiamo raccolto diverse adesioni importanti. Ah, quindi la reazione è stata positiva? Assolutamente sì, proprio in questi giorni nel Corriere dell'Umbria sono delle belle pagine appunto dove altri protagonisti della vita culturale e politica della nostra regione si stanno alternando e tutti quanti esprimono soddisfazione rispetto all'idea, e noi siamo contenti perché l'idea che lancia Assisi, ma ripeto, vuole essere condivisa sull'intero territorio regionale, dove tra l'altro ci sono centri di eccellenza. Abbiamo un'università straniera a Perugia molto certo. importante, l'università degli studi, centri di alta formazione, l'Accademia di Belle Arti, quindi insomma non ci manca nulla, e voi sapete tutti come l'Umbria sia bella ed anche accogliente. Insomma, progetti di mobilità per la terza età ci sono, e ne abbiamo parlato anche in diverse puntate qui all'Altra Europa, però in effetti sono progetti più limitati nel tempo, no? Una settimana, 15 giorni di esperienza, di scambio. Qui invece insomma si penserebbe a un periodo un po' più lungo, che sicuramente sarebbe più immersivo e quindi più simile al progetto Erasmus. Guarducci, teneteci aggiornati, vogliamo seguire assolutamente questo progetto perché ci piace. Siamo contenti di anticiparlo alla D24, perché la D24, voi dovreste saperlo, è nata il giorno di San Francesco, quindi 4 ottobre 1999, quindi siamo contenti di avervela anticipata alla vostra emittente. Grazie davvero, insomma in bocca al lupo per il progetto allora. Salve Guarducci. Grazie. Adesso abbiamo anche festeggiato il nostro compleanno in anticipo, c'è Andrea dall'altra parte che dice facciamoci gli auguri. Allora, ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, e poi vogliamo verso l'Islanda insieme ad Alex Bellini, che proprio questa notte ha concluso la sua impresa, l'attraversamento del ghiacciaio più grande d'Europa, e andiamo a scoprire com'è andata dalla sua viva voce. Europost-it. Concorso Europa e Giovani. A tutti gli studenti d'Italia ed Europa. In occasione dei 60 anni dai Trattati di Roma, riparte il concorso Europa e Giovani, promosso dall'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia. I giovani partecipanti sono invitati a comporre elaborati scritti scegliendo una delle tracce di attualità proposte da IRSE. Ad esempio, universitari e neolaureati under 27 saranno chiamati ad esprimersi in 20.000 caratteri su temi che vanno dai Fab Lab a Brexit alle disuguaglianze. Per gli studenti delle scuole secondarie e superiori, perno centrale della riflessione sarà invece il mondo del web e dei social, su cui anche loro sono chiamati ad esprimersi per iscritto. Infine, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno trasformarsi in ecoguide e ambasciatori verdi del proprio territorio, elaborando percorsi green di richiamo turistico. La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata per sabato 18 marzo 2017. Tutte le tracce e le istruzioni sono sul sito centroculturapordenone.it/irs. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta L'altra Europa. Lo abbiamo accompagnato nelle prime ore di cammino sul ghiacciaio, dovevamo collegarci la scorsa settimana, ma era momentaneamente caduto in un crepaccio e abbiamo il piacere invece di averlo qua con noi oggi dopo una tirata, perché credo che gli ultimi giorni e non solo quelli siano stati durissimi su questo Vatna Yakul, il ghiacciaio più grande d'Europa, per la prima volta attraversato in inverno. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Alex Bellini, ciao Alex! Buongiorno a tutti, ciao Federico. Senti che bella voce. Eccomi. Allora, intanto lo diciamo subito che insomma nelle tue pagine social ti abbiamo seguito, abbiamo ascoltato anche i tuoi audio. Com'è andata? È andata molto bene. Sì. Devo essere, adesso posso essere onesto con tutti quanti voi, pensavo fosse una passeggiata di salute. Invece è stata una cosa molto più complessa, molto più impegnativa, a tratti molto molto sfidante, non ha mancato di regalarmi emozioni, dalle più belle alle più brutte, e di questo ne vado molto orgoglioso, perché la cosa peggiore che potessi augurarmi era di passare 15 giorni noiosi. Mm-hmm. Ecco, non c'è stato un minuto, un solo secondo in cui mi sia annoiato. Ho visto delle fotografie con tu rinchiuso per ore dentro questa tenda, tenda rinforzata, perché appunto il vento forte, fortissimo, poteva spezzarla, poteva farla volare via. Neanche in quelle ore dove eri un po' in gabbia ti sei annoiato? No, guarda, non c'era tempo di annoiarsi. L'emozione prevalente era la paura in quei momenti. Quindi quando il vento sferza 100 km orari e la tenda, per quanto rinforzata, per quanto buona, per quanto la migliore, non è sufficiente a isolarti da questo vento in tre ore, in quella notte famosa, come ho detto durante i miei aggiornamenti, forse la notte più brutta della mia vita, è entrata così tanta neve nella tenda che alla fine della tempesta l'ho tirata fuori con il badile. E non sapevo più da che parte girarmi, avevo i piedi puntati sulla parete della tenda esposta verso il vento, nella speranza che almeno tenessero queste bacchette di alluminio, di che materiale sono fatte. Ho avuto veramente molta paura. Ripeto, la noia non è stata una compagna di no. viaggi. Ci sono stati molti momenti in silenzio, molti momenti di profonda riflessione, ma anche momenti di semplicemente, sai, una sorta di estasi, no? Sei collegato con un altro altrove, godendoti quei momenti che in un'altra condizione, dico, in un altro ambiente non avrei mai potuto vivere. E questa è la magia del viaggio, ma poi non solo del viaggio estremo, perché tutti quanti capiscono quello che sto dicendo. No? Mentre si viaggia uno cambia, no? Le emozioni emergono come se fossero seppellite da metri e metri di strati di vita quotidiana, e arriva il momento in cui uno è a confronto con il vero se stesso, no? Certo. E questa è secondo me la magia del viaggio. C'è stato anche, insomma, alcuni momenti drammatici, almeno perché li ha dovuti seguire soprattutto a distanza, ma immagino anche per te, come per esempio la caduta nel crepaccio di tutto questo. Ne parlerai però in diretta il 14 febbraio, in una conferenza live su Facebook alle 16.30 orario italiano. Trovate tutte le informazioni sui social network di Alex, italexbelini.com è il sito. Tra l'altro da una sede prestigiosa, vero, farai questa conferenza stampa? Sì, nella sede, credo al mondo non ci sia un posto più indicato di questo, sarà la Royal Geographic Society, che è stata casa di più grandi esploratori inglesi, da Shackleton a Scott, e da lì a seguire tutta questa schiera di personaggi che come me hanno pestato il terreno dell'avventura e dell'esplorazione. Quindi ti aspetto numerosi, perché ci sarà ancora tanto da raccontare, perché quello che ho raccontato sui social è stato quello che estemporaneamente usciva dalla mia mano, no? Perché poi scrivevo, ma c'è molto, molto di più. Hai citato per esempio l'evento del crepaccio, devo dirti che non so come ne sono uscito vivo da lì, veramente. Forse ho avuto una manina dal cielo che mi ha appoggiato dolcemente su questo manto nevoso. Ma guarda, è stato da brividi. Fortunatamente, ecco, forse in quel momento lì sono riuscito a mettere in pratica tutte quelle piccole lezioni che in 15-20 anni di esperienza ho accumulato, e quindi sono riuscito anche a non diventare matto, perché in quel momento lì era molto molto semplice, no? Lasciarsi andare allo sconforto, e invece lentamente sono riuscito a risalire da questo crepaccio, riemergendo come veramente un fantasma da un altro mondo. E qua è la testa che fa la differenza oltre al fisico. Un'ultima domanda, Alex. Sei andato in questo ghiacciaio, in questo tetto d'Europa per raccontare il mondo, il clima che sta cambiando, per raccontare, pestare questo ghiacciaio affinché, per poterlo raccontare alle tue figlie, alle figlie delle tue figlie che potrebbero rischiare di non vedere questo ghiacciaio, che cosa hai visto, cosa hai toccato, cosa hai testimoniato col tuo camminare? Quello che ho notato è stato la doppia faccia della natura. Da una parte terrificante, orribile, estrema, dall'altra parte anche molto fragile. Ieri, scendendo dai 1600 metri di questo plateau per arrivare ai 900 metri, ho incontrato via via sempre condizioni sempre peggiori. Chiazze in mezzo al ghiacciaio, chiazze d'acqua. Ieri negli ultimi 7 chilometri ho preso una di quelle lavate di pioggia che me la ricorderò per tutta la vita. E poi momenti, cambi climatici estremi, da vento a 50 nodi a bel tempo nell'arco delle 24 ore. Anche questo è una delle conseguenze di questo cambiamento drammatico del clima. E poi, sai, mi ero preparato per affrontare temperature a 40 gradi sotto zero. Credo che la temperatura più rigida sia stata di 18-20 gradi, non di più. Anche questo fa segnare un cambiamento epocale. Però l'ho trovato in certi momenti in buona salute. Comunque il mio sedere era appoggiato su 600 metri di ghiaccio, ok? Nella zona più alta. Però ovunque ti giri ci sono segnali, anche tra i geologi, gli scienziati che studiano da anni questo ghiacciaio, parole di grande allarme. Quindi insomma, tornato a casa preoccupato, però come sempre poi la speranza è la tua chiave, e questo era un viaggio anche per portare un cambiamento, non solo il cambiamento climatico ma un cambiamento culturale, e lo hai fatto con la tua testimonianza. Alex, le tue figlie cosa ti hanno chiesto? Ma le mie figlie mi hanno chiesto, allora, in ordine, perché ho pianto al telefono con la mamma, quindi con mia moglie, che non capivano se era un pianto di gioia, un pianto di paura. Per loro era pianto, quindi volevano assicurarsi che stessi bene. Mi hanno chiesto per quanti giorni ho dormito nel fosso, e non ho ancora capito di che fosso parlano, se il fosso del crepaccio, se il fosso invece la tenda, e se in generale ho preso freddo. E così, insomma, sono state molto, molto carine. Molto tecniche anche, giustamente. Sì, esatto. Grazie Alex per la tua testimonianza. Ricordiamo allora, il 14 febbraio, 16.30, orario italiano, questa conferenza stampa, ma aperta a tutti, un live su Facebook per chiacchierare con Alex, ascoltare il suo racconto in diretta e poter fare anche delle domande, quindi poter interagire con lui. Tutti i social network sono aperti per poter trovare le coordinate relative all'appuntamento. Grazie Alex per essere stato con noi. Grazie Federico. Ciao a tutti voi, buona giornata. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Poi c'è la squadra dell'Altra Europa, Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattone come sempre in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. L'Altra Europa @radio24.it, se volete contattare la redazione, se volete segnalarci iniziative, progetti europei o quant'altro possa essere poi narrato qui all'interno dell'Altra Europa. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.